1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora signori, sono le 7:20 minuti e di fatto si può dire, visto che ha vinto il no, che si apre la 188esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che rimangono lì, visto che appunto, come sapete, con il 59,7% ha vinto il no, dunque la riforma costituzionale non è passata, gli italiani hanno bocciato in questo anche di fatto il governo, se è vero che Renzi ieri ha annunciato a tarda sera che oggi salirà al Quirinale la Mattarella per rassegnare le dimissioni. Tra l'altro poco fa, leggo delle agenzie, c'è stato un tweet anche del ministro dell'interno Alfano che scrive così: insieme a milioni di italiani abbiamo giocato una bella partita, l'abbiamo persa, è stato bello e giusto giocarla per l'Italia. Questo è il commento di Angelino Alfano. Ma insomma, in questa rassegna stampa ovviamente ci concentreremo quasi esclusivamente, non solo ma moltissimo, sulla lettura degli articoli, dei tanti articoli, commenti dedicati al referendum. E allora andiamo, caro Peter, forza. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a lunedì 5 dicembre e siamo con intanto i titoli. Il Sole 24 Ore, che oggi, ricordo, esce non la solita edizione del lunedì preconfezionata, ma esce tutto fresco per la vicenda referendaria. L'Italia ha scelto il no, Renzi mi dimetto, questo è il titolo di prima pagina. Il premier: sconfitta netta, responsabilità mia. A Mattarella il timone della crisi. Per il Corriere della Sera: l'onda del no, Renzi lascia. Per Repubblica: trionfa il no, Renzi lascia. La Stampa: no a valanga, Renzi mi dimetto. Il Messaggero: vola il no, spallata a Renzi. E poi ci sono i titoli dei giornali, che non hanno mai fatto mistero di essere molto antigovernativi. Libero: Renzi fa le valigie, questo è il titolo. Il Giornale a caratteri cubitali ha un Renzi va a casa. Il Fatto Quotidiano: la Costituzione batte Renzi 59-41 e lui si dimette. C'è un gigantesco no sulla faccia di Renzi, che ha le mani a coprirsi gli occhi. Mentre La Verità, anche La Verità che esce oggi lunedì in via del tutto eccezionale, ehi fu, la porti un bacione a Firenze, e c'è un Renzi caricaturato con un occhio pesto. La caduta di Renzi è il titolo anche del Secolo XIX, mentre Il Manifesto titola bello ciao. Questo è il titolo di prima pagina del Manifesto. Allora, cominciamo intanto dall'analisi. Il voto, pagina 2 del Corriere della Sera. Io ho perso. Nella politica italiana non perde mai nessuno. Io sono diverso, lo dico a voce alta, anche se con il nodo in gola, perché non siamo robot. Non sono riuscito a portarvi alla vittoria. Ho fatto tutto quello che si poteva fare. Credo nella democrazia quando uno non perde. Quando uno perde non fa finta di nulla e fischietta. Così Matteo Renzi commenta: ora sta all'opposizione fare la proposta sulle regole. D'altronde la vittoria del no, scrive il Corriere della Sera, pagina 2, è netta, 59,7% quando mancano poche sezioni da scrutinare. E così, poco dopo mezzanotte, Renzi, dopo aver parlato al telefono con Mattarella, annuncia le dimissioni. Questa è la cronaca, il dato di fatto. È interessante leggere in retroscena. Intanto Maria Teresa Meli racconta sul Corriere della Sera, pagina 3, come Renzi si è sfogato con i suoi. Con queste parole: ho fatto quel che doveva fare, ho proposto una riforma giusta, ho combattuto contro la casta più schifosa. Se non mi vogliono, me ne vado con la coscienza a posto. E quel me ne vado va inteso in senso lato. Non si tratta solo di abbandonare Palazzo Chigi, ma addirittura lasciare la segreteria del partito. Questo almeno nel retroscena del Corriere della Sera. Tra l'altro Renzi aggiunge: non credevo che potessero odiarmi così tanto. Un odio distillato, purissimo. Non degli italiani ovviamente, ma sono gli avversari, quelli a cui il Presidente del Consiglio, che oggi rimetterà il mandato, si riferisce. E riguardo alla minoranza del PD: ora Beppe Grillo si sentirà già al governo. Han fatto in modo, quelli del PD, ovviamente la minoranza, che sia così. Sono tentato di dire che adesso tocca alla coalizione del no dare le carte. Sono loro che devono decidere quale governo fare. Li voglio vedere. Non hanno un leader alternativo. Avevano solo un nemico comune. Stavano insieme solo per battermi del merito della riforma della Costituzione. Non importava niente a nessuno. Ovviamente... questo è il titolo del retroscena. Non credevo mi odiassero così. Poi si racconta di un Renzi in lacrime, si racconta sul Corriere della Sera con Fabrizio Roncone a pagina 4 di una Maria Elena Boschi ieri in lacrime. E, il titolo è Lo shock nella notte al Nazareno, la Boschi piange, e i retroscena raccontano Goffredo De Marchis, la solitudine del premier. Sotto assedio io non ci sto. Sono su Repubblica a pagina 3. La tentazione è quella di mollare tutto, racconta anche Repubblica. Palazzo Chigi e segreteria del PD, come disse un anno fa nella conferenza stampa di fine anno. Di recente all'amico ritrovato Matteo Richetti, qualche giorno fa, Renzi aveva confessato: sono stanchissimo, non solo del lungo viaggio per l'Italia, delle notti in bianco, delle maratone in TV, ma del non essere stato compreso in uno sforzo per riportare l'Italia al vertice dello scenario europeo e mondiale. E ora, dice Renzi, non posso fare finta di nulla, davvero non sono come gli altri. Per la stampa, e qui c'è da dire la lettura un po' diversa, Fabio Martini, in realtà il passo indietro di Renzi è un passo indietro studiato, perché ora vorrà rimettersi in cammino verso le elezioni politiche. Questo è il titolo di pagina 3 della stampa. Nel discorso della sconfitta il leader ha ritrovato un tocco umano che aveva perduto, ma ora la sfida più difficile è proprio dentro al Partito Democratico, dove, racconta Fabio Martini, Renzi è pronto a un'operazione non semplice. Ma proprio a questo tragitto prelude l'uscita da statista del premier. Mollando senza indugio la sua poltrona, il segretario del PD intende ricostruirsi una sua verginità, esattamente come fece nel 2012, quando, sconfitto da Bersani alle primarie, lasciò. E proprio sul discorso di accettazione della sconfitta, Renzi costruì la sua rivincita alle primarie, poi vinte, contro Gianni Cuperlo. Ecco perché ieri notte Renzi ha risparmiato qualsiasi recriminazione nei confronti degli avversari, a cominciare dai compagni di partito. Certo, poi lo ha fatto magari in sfoghi privati, però dal punto di vista tecnico, questo, come dire, abbandono, questo ho perso, me ne vado, in realtà prelude a un volere in qualche modo rincorrere una nuova chance. Ora bisogna capire che succederà. Cioè, se oggi Renzi va da Mattarella, come ha detto, a dimettersi, a rimettere il mandato, ora il capo dello Stato ha in mano il pallino. Che succederà? Secondo i giornali, secondo quasi tutti i quotidiani, lo scenario più probabile è quello di un tentativo di reincarico intanto. E cioè Mattarella potrebbe sondare Renzi stesso per capire se vuole continuare magari con un'altra squadra di governo. Visto il discorso di ieri, i giornali raccontano che è presumibile che Renzi rifiuterà. A questo punto, per esempio, racconta Dino Martirano sul Corriere della Sera, pagina 5, il Quirinale, vista l'estrema delicatezza e il passaggio istituzionale, si era allarmato per l'ipotesi che Renzi desse l'annuncio delle dimissioni in piena notte, prima di salire al colle. Poi però Renzi ha fatto una telefonata a Mattarella chiarendo che tutti i passaggi istituzionali verranno rispettati anche in tempi rapidi. Che succede? Torna in campo l'ipotesi di un incarico, non dovesse essere per Renzi, istituzionale a Padoan, è il nome più gettonato, Padoan in poll, anche per Tommaso Ciriaco su Repubblica. C'è anche l'ipotesi di Piero Grasso, cioè presidente del Senato, ma Repubblica mette anche altri nomi, tra i tecnici Giuliano Amato, che rispunta per tutte le occasioni, tra gli istituzionali Romano Prodi, anche lui rispunta in tutte queste occasioni, tra gli outsider Paolo Gentiloni, vale a dire il ministro degli esteri, o Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, o Delrio, ministro che peraltro ha già detto io mai, o Franceschini, ministro della cultura, che peraltro invece pare pronto a dire che è Renzi che deve continuare. Insomma, gli scenari sono tanti. Emilia Patta racconta a pagina 5 del Sole 24 Ore l'ipotesi crisi lampo e governo Padoan. La decisione è di Renzi di prendere atto del risultato negativo è arrivata prima ancora che fossero resi pubblici gli exit poll. È chiaro che la serata, trascorsa direttamente a Palazzo Chigi, senza il passaggio nella sede del PD a Largo del Nazareno, è stata puntellata da considerazioni e paletti. I ministri Delrio e Franceschini sono un'ipotesi possibile per varare la legge elettorale, dice e scrive Emilia Patta. Si fanno i nomi anche di Grasso, si fa il nome anche di Laura Boldrini, dunque presidenti di Senato e Camera, ma il nome più gettonato pare quello di una sorta di governo tecnico a guida Padoan. Ma ovviamente questo si vedrà nei prossimi giorni. Siamo fermi al momento al risultato, che è quello che conta, cioè la vittoria del no con il 59,7%, diciamo un 60-40, e quindi nettamente ha vinto chi non ha voluto cambiare la Costituzione, ha perso in questo caso la riforma costituzionale proposta dal governo, e ora gli scenari sono questi. Dopo la pubblicità rientriamo e capiremo per esempio come hanno reagito coloro che hanno vinto quello che Renzi ha definito accozzaglia. Cosa ne pensa Berlusconi, cosa ne pensa Salvini, cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle. Ripartiamo da qui, state con noi. Alessandro Milan, il ciaone al referendum dell'informazione. Va bene, cari ascoltatori, alle 7:36 minuti, poco fa anche il sindaco di Palermo, Orlando, Leoluca Orlando, fa sapere che a Palermo c'è stato il 72% di no. Bisogna, è interessante anche capire, poi un'analisi del voto ci saranno nei prossimi giorni, quali sono le città. Per esempio a Milano ha vinto il sì. A Palermo appunto 72% di no, quindi moltissimi, una valanga di no. Interessante sarà capire anche per l'analisi delle zone del paese dove il referendum ha dato risultati più diversi. Ripeto, la notizia ormai la sapete, comunque la vittoria netta di fatto del no e Renzi che dice mi dimetto, il mio governo finisce qui. Oh, chi esulta? Beh, a me fa sempre un po' specie vedere che nel Partito Democratico si adoperino nel tipico sport che da sempre praticano, cioè quello dell'accoltellamento del proprio leader. Di fatto questo è un qualcosa di evidente anche in questa campagna elettorale. Sentire Massimo D'Alema, che ieri poi tra l'altro la sua Roma ha vinto anche il derby, esulta in una maniera incredibile, una giornata perfetta. Forse abbiamo anche la possibilità di sentirlo, no? Massimo D'Alema che praticamente ieri gongolava, no? Per la sconfitta del leader del suo partito. Sentitelo qui, D'Alema. Beh, no, ci ha fatto contenti. non so. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima, diciamo. Pure vinto il derby, insomma, ecco, in coda al derby, ma in realtà era una giornata bellissima anche fino alle 3 del pomeriggio, credo, prima delle 3 del pomeriggio, quando Roma ha vinto il derby da D'Alema, che di solito sempre un po' cupo, invece sorridente vi è più. Allora, ecco, la sinistra, c'è un altro PD che festeggia, parte la resa dei conti nel partito. Aspettiamo di capire se è una mucca o un toro. Così alle 23 Bersani da Piacenza pregusta la vittoria clamorosa. Lui che aveva usato questa metafora del fatto che Renzi non si accorgeva che c'era una mucca nel corridoio. È un toro! Urla poi a mezzanotte il leader della minoranza ricorrendo all'amata metafora zootecnica. Felice di aver sventato il governo del capo. E allora quelli che esultano di più sono appunto all'interno del PD, e anche Repubblica con Giovanna Casadio racconta quello che sarà lo scontro nel PD. Guerini convoca la direzione per domani e Delrio dice non è escluso che Matteo si dimetta anche da segretario. Staremo a vedere. Esultano invece, le forze politiche, quelle definite accozzaglia da Renzi, Intanto il Movimento 5 Stelle, Grillo, che aveva detto ho già preso scorte di Malox, in questo caso aveva fatto professione un po' di pessimismo per non esagerare troppo nell'ottimismo, e invece ora dice subito al voto con l'Italicum, la squadra di governo sarà scelta sul web. Ilario Lombardo racconta sulla stampa, sarà stata scaramanzia o meno, ma Beppe Grillo si era preparato al peggio, aveva due post per il blog, uno in caso il sì avesse prevalso, l'altro per la vittoria del no. Quello del sì è più efficace, è bellissimo, scherzava durante il pomeriggio, alla fine ha pubblicato l'altro, quello del trionfo. Scrive Beppe Grillo, ha vinto la democrazia, la risposta degli italiani è stata netta. E ora? Noi siamo decisi ad andare alle elezioni, continuando a giocare con l'idea poetica di un possibile fallimento, vuole Beppe Grillo dire andiamo a votare subito con l'Italicum, non ci siederemo al tavolo col PD, aggiunge Di Battista, non dite che siamo l'antipolitica. Anche Repubblica racconta dell'esultanza dei 5 Stelle, c'è un'intervista a Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, a pagina 6. La domanda intanto è questa, come mai sembravate così pessimisti del risultato? Non è che fossimo convinti che vincesse il sì, ma c'è stato un condizionamento pesante da parte dei mezzi di informazione. Quando non hai un'informazione corretta rischi. E che accadrà adesso? Risponde Roberta Lombardi, il Premier ha personalizzato questa campagna referendaria come fosse un voto su di lui, non può che prendere atto che gli italiani non solo non l'hanno mai eletto, ma hanno sfiduciato la politica di questi 3 anni. Sulle possibili elezioni, Luigi Di Maio sarà il vostro candidato Premier? Candidato Premier e squadra di governo saranno scelti con la più ampia partecipazione attraverso la rete tra tutti coloro che si sentiranno di accettare la candidatura a un ruolo così impegnativo. Così Roberta Lombardi su Repubblica, ma anche il Corriere racconta l'esultanza di Grillo, che ha anche l'esultanza di Berlusconi, che dice ho spostato il 5% dei voti, l'ex premier si sente decisivo, racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera, non andremo al traino del carroccio, e quindi qui si apre la divisione anche tra Lega Forza Italia, cioè cosa succede nel centrodestra, lo aveva detto nei suoi ultimi appelli televisivi, se è di parola e io gli voglio credere, con la vittoria del no Renzi deve lasciare la politica, io lo dico a lui visto che lui lo disse a me, ora è game over. E poi Berlusconi commenta, sono stato decisivo, con la mia sola presenza in pochi giorni ho spostato almeno il 5% dei voti, anche molti di più, senza di me non si va da nessuna parte. E vabbè, è un Berlusconi che ovviamente si gasa, si ritiene ancora l'uomo giusto per il centrodestra, mentre Matteo Salvini ovviamente punta a dire elezioni e forse l'uomo di destra si sente lui. In ogni caso ci sono anche 2 articoli col referendum, poi chiudiamo, tanto ci sono anche altri articoli e poi nei giorni prossimi se ne parlerà a Iosa, che vi voglio segnalare. Il primo è Luca Davi e Marco Ferrando sul Sole 24 Ore, sono a pagina 9. Monte Paschi, in bilico il piano di salvataggio. Ricordate la questione del Financial Times, attenzione alle banche se vince il no? Ebbene, la vittoria secca del no apre una fase di incertezza, racconta il Sole. Un'incertezza politica che in Italia può mettere a rischio il settore da sempre più esposto alla speculazione finanziaria, vale a dire le banche. Anzitutto il piano di salvataggio del Monte Paschi, perché potrebbero venire a mancare le condizioni di contesto necessarie a far funzionare il delicato gioco a incastri studiato dal management assieme agli advisor JP Morgan e Mediobanca. Ma tutto il settore potrebbe trovarsi sotto tiro a partire da Unicredit, a sua volta alle prese con una revisione strategica con maxiaumento. Il primo responso sarà proprio sul piano Montepaschi. In questo caso tutto quasi dipende dalla reazione dei mercati. Dunque il quadro si farà più chiaro oggi e aggiungo io tra pochissimo. E poi anche Unicredit, l'analisi insomma delle banche fatta dal Sole 24 Ore. E poi ci siamo noi e l'Europa. E questo è l'altro articolo che vi voglio segnalare, il secondo articolo. Beda Romano, sempre sul Sole 24 Ore, pagina 13. il caso Italia all'esame dell'Eurogruppo. Appena qualche ora dal voto italiano di ieri, il destino vuole che proprio oggi si tenga a Bruxelles una riunione dei ministri delle finanze della zona euro. L'incontro giunge dopo che nelle scorse settimane l'establishment comunitario aveva preso posizione a favore del sì alla riforma del Senato. L'Eurogruppo dovrà giudicare la legge di bilancio 2017 in un contesto politico scosso dalla vittoria del no nel referendum. Bruxelles ha tenuto conto dell'incertezza politica italiana quando ha pubblicato in novembre un'opinione attendista nella finanziaria e oggi i ministri europei decideranno come valutare la manovra 2017. Tra l'altro, con la grande novità delle dimissioni di Renzi. Indovinate un po' chi va come ministro delle finanze in questa riunione a Bruxelles? Proprio Padoan. Quel Padoan che, chissà, potrebbe essere il nuovo capo del governo nel caso si vada a un governo tecnico. Reazioni intanto, reazioni ancora al referendum, le leggo dalle agenzie. Esulta Zaia, Luca Zaia, presidente del Veneto, che dice: è stato un risultato strepitoso, straordinaria partecipazione degli elettori. Grande lezione di democrazia venuta dal Veneto, è la fine del grande fratello, dice Zaia, mentre Cuperlo, che faceva parte della minoranza Dem, poi però si è avvicinato un po' a Renzi con anche accuse ai suoi confronti da parte della minoranza di essere un po' così a metà. Al Corriere della Sera dice: ho cercato di tenere unito il PD in questo senso, non mi sento sconfitto, però è una sconfitta severa. Va bene, dai, abbandoniamo il referendum dopo il traffico, abbandoniamo anche oggi Mauro Meazza, lasciamolo dormire, abbandoniamo tutti. No, scherzo, dopo il traffico rientriamo con le altre notizie sui giornali. Alessandro Milan, il giornalista che mi fa più della giornata. Ciao da Anastasia. Oh, mannaggia Anastasia, eccoci qui, ho capito bene il nome, spero, piccoluccia. Grazie, grazie. Allora, a proposito di elezioni, si è votato anche in Austria un remake nuovamente delle elezioni presidenziali. Ha vinto Van der Bellen, cioè il portavoce storico dei Verdi, contro l'ultraconservatore Norbert Hofer, che quindi rappresentante della destra, considerato alcuni anche della destra molto forte, molto estrema, è stato sconfitto, e questo raccontano i giornali. Per quel che riguarda la cronaca, vi segnalo una notizia che c'è su Repubblica che mi ha abbastanza inquietato. Franco Vanni, pronto per un attentato al megastore di Arese, è stato arrestato un trentenne marocchino che lavorava come aiuto cuoco al centro commerciale. Questa è una notizia che mi ha molto colpito. Si era messo a disposizione, secondo Repubblica, il suo contatto siriano aveva giurato disponibilità a compiere un attentato in Italia. È stato arrestato questo trentenne marocchino che viveva a Milano, lavorava appunto come aiuto cuoco al centro commerciale di Arese e, racconta Repubblica, era pronto, era a disposizione per compiere un attentato proprio nel centro commerciale stesso. Va bene, prima di leggere le altre notizie, siccome l'abbiamo chiamato al volo e lo ringraziamo, torniamo sul referendum. Ovviamente Matteo Salvini, leader della Lega, grazie. Salvini, buongiorno, eccoci qui. Splendido giorno e grazie a chi fra coloro che ci sta ascoltando ieri ha dato vita a questa giornata eroica. Io dico buongiorno, lei dice splendido giorno. Dai, una partecipazione del genere, gente che faceva la coda per tornare a scegliere, riempie il cuore al di là delle analisi politiche. Adesso cosa fa Mattarella, ma quindi Renzi, ma quindi la Boschi. Intanto vediamo cosa fa la Lega e cosa vuole la Lega. La Lega cosa vuole? Ma io penso che chi ha votato ieri e non lo faceva da anni voglia tornare a scegliere, a decidere, quindi a scegliersi i parlamentari, a scegliersi quindi un governo nuovo, legittimo, e quindi la Lega pensa che sia doveroso andare a votare il prima possibile senza star lì 8 mesi a chiacchierare di legge elettorale, perché il problema è economico, il problema è la disoccupazione all'11,6%, un sistema bancario che Renzi e l'Europa ci lasciano barcollante, quindi... Sì. Noi diremo, ma subito vuol dire Repubblica, subito con qualunque legge elettorale la consulta deve pronunciarsi su questa benedetta, maledetta legge elettorale partorita da Renzi, che già pare che non vada bene. Bene, ci dicano quali sono gli elementi di incostituzionalità, lasciano agli italiani la legge elettorale, che secondo i giudici sta in piedi e si può usare già da settimana prossima, e poi si voti il prima possibile, perché non possiamo permetterci di trascinare, soprattutto per i temi economici, per la situazione economica, per mesi e mesi il dibattito sulla legge elettorale. Quindi quello che lei vuol dire è non anche un governo di scopo, un governo tecnico elettorale. Voi proporrete, nel caso di consultazioni, lo scioglimento Sì, dai, abbiamo già digerito e abbiamo visto con quali risultati Monti, Letta, Renzi. Io penso che adesso tocchi a qualcuno che ha l'ok dei cittadini, perché io ho visto percentuali di affluenza al voto, ad esempio in Lombardia, del 75%. Sa però che nella sua Milano ha vinto il sì, per esempio. Beh, la mia Milano ha appena rieletto Sala come sindaco dopo i disastri di Pisapia, quindi io rispetto il volere dei cittadini. Ho visto che nei quartieri del centro, è strana storia che si ripete, nei quartieri dove si sta meglio, dove si sta bene, dove i problemi sono un po' lontani, vince il sì. Poi dove inizi a vivere sulla tua pelle la vita reale, però va bene così, diciamo che è stata un'emozione e anche un orgoglio, sì, piccolissimo, incredibile. Quindi adesso noi dobbiamo dimostrare di essere pronti a essere un'alternativa. Ci siamo, sono pronto anche domani. Perfetto, due domande veloci per chiudere. Matteo Renzi che lascia, c'è almeno da parte sua un chapeau, perché voglio dire, si presenta e dice ho perso, finisco, me ne vado? Sì, anche se avendo lui cambiato idea in questi 3 anni 18 volte su tutto e su tutti, vigileremo affinché non sia una cosa di facciata e poi non ci siano i soliti giochini per cui ma no rimani, ma sì dai allora forse rimango per il bene del paese, eccetera eccetera. Vigilerete. Infine, lei ha detto comunque vada dal 5 dicembre, cioè oggi, come dire, inizia una nuova fase anche per il centrodestra. Berlusconi, certo, ha detto sono stato, certo, decisivo, ho spostato il 5%, Berlusconi dice. Che succede? Certezza che io non ho, ma io ringrazio tutti coloro che nel piccolo hanno dato una mano a fermare questa pessima riforma, anche coloro che sono più lontani da me, dall'Ampi, alla CGIL, ad Alema, ai 5 Stelle, perché è stata una battaglia di Davide contro Golia, perché di là c'erano le corazzate, i banchieri, i finanzieri, il governo tedesco, l'Unione Europea, sì, la JP Morgan, Confindustria, Coldiretti, tutti, quindi vuol dire che i cittadini ragionano e non sono in vendita. Adesso succede che bisogna mettere in piedi un'alternativa che io non chiamo neanche più di centrodestra, perché sono categorie vecchie, sì, superate, un'alternativa che parla di sovranità, di controllo della moneta, dei confini, delle banche, dell'agricoltura, di quella che è vita vera, sì, alternativa sia alla sinistra che ai 5 Stelle che sicuramente sono stati importanti per la vittoria del no, che però poi alla prova del governo l'abbiamo visto a Parma, lo stiamo vedendo a Roma, mentre la Lega può essere criticata per tutto quello che volete, ma da 20 anni guida Veneto e Lombardia, che sono i due motori, tra i motori d'Europa, e si governa discretamente. Matteo Salvini dice esportiamo il modello, non è inventare niente, non abbiamo soluzioni marziane o aliene, esportare il modello di buon governo lombardo-veneto a livello nazionale, con un'alleanza la più ampia possibile, che ovviamente però non prevede gli Alfano, i Verdini, Cicchitto, Casini, Tosi e questa gente qua. Va bene, grazie Matteo Salvini. Allora, ovviamente il commento a caldo, poi nei prossimi giorni si vedrà che cosa succede. Grazie Matteo Salvini, leader della Lega. Allora, qua in questa rassegna stampa, anche dedicata al referendum, chiudiamo solo con la carta costa, come sempre, una pagina dedicata sulla stampa Eter Parisi, che si lamenta perché è stata trattata come un ospite e non come co-conduttrice nel nuovo programma Nemica Amatissima. Ma chi se ne frega!